2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 24 novembre 2012, benvenuti o bentornati a 2024, il programma di Radio 24 che ogni settimana ci racconta come la tecnologia ci cambia la vita. Sono le 15:33 minuti, salutiamo le donne di 2024, a partire da Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica e poi nella nostra redazione Nadia Zammitti e Anita Panizza. Il nostro numero verde per chiamarci, soprattutto nella seconda parte, quando parleremo di LTE, di 4G, cioè della nuova generazione, della quarta generazione di telefonia mobile che, almeno in alcune aree del paese, disturba e disturberà le trasmissioni della TV digitale terrestre. E allora molti italiani potrebbero domandarsi: ma come? Dovrò fare dei lavori sulla mia antenna? Ebbene sì, il problema è capire se lo devono fare in pochi, in pochissimi, oppure se il numero di queste persone è elevato. Dicevo, il nostro numero verde è 800240024, se volete utilizzare le altre modalità, SMS 349-238-6666. La chiocciolina poi è di Enrico _ Pagliarini per Twitter, o anche la pagina di 2024 su Facebook. Se usate Twitter potete mandare un messaggio al posto di, ad esempio, degli SMS. Dunque, una notizia importante della settimana è quella che ha dato Paul Otellini, l'amministratore delegato di Intel, che ha annunciato che lascerà l'azienda a maggio. Questa è una notizia importante ed è per certi versi anche una buona notizia, perché soprattutto per quanto riguarda il mondo mobile, quindi smartphone e tablet, Intel ha perso qualche treno. Infatti tutti i prodotti, ne abbiamo parlato più volte, 2024, sono basati su piattaforma ARM. Intel è un'azienda tecnologicamente molto avanzata, tra le più avanzate al mondo, è un'azienda che produce ancora oggi moltissimi utili, quindi un sacco di business in tutto il mondo, ma sicuramente in quel settore è bene guadagnare quote di mercato, e quindi l'uscita di Otellini sicuramente darà una svolta a questa azienda, e torneremo anche su questa notizia e sulle evoluzioni. Adesso ci trasferiamo a Roma per parlare di un nuovo servizio lanciato da una cooperativa di taxi, si chiama Samarcanda. La cooperativa è un esempio di come si può usare la tecnologia in modo molto semplice per dare un servizio ai clienti. Questo vale per tutti i settori e per tutte le attività. Allora, Samarcanda è una cooperativa sempre molto attiva da questo punto di vista, ad esempio accetta da anni la carta di credito, alcuni mesi fa ha dotato ogni auto di connessione wifi gratuita per i clienti a bordo del taxi, ne abbiamo parlato anche a 2024, e da pochi giorni mette a disposizione, pensate, un tablet con un'app che si chiama iSamarcanda. Massimo Mancinelli è il presidente della cooperativa Taxi Samarcanda di Roma. Samarcanda è un servizio innovativo che la cooperativa Samarcanda mette a disposizione di tutta la sua clientela per migliorare la qualità dei servizi che oggi offriamo a tutti i nostri clienti. È nata dall'esigenza, proprio in questo momento storico dove il tema dell'agenda digitale è al centro del dibattito sullo sviluppo socio-economico dell'Italia, quindi abbiamo sposato in pieno queste problematiche, questa filosofia, perché crediamo che applicando queste nuove tecnologie, quindi sfruttando queste nuove tecnologie, sicuramente possiamo recuperare risorse e produttività per migliorare i nostri servizi a bordo dei nostri taxi. Cosa c'è su questa app per i clienti che trovano questo tablet sul taxi? Massimo Cipriani è il responsabile della comunicazione della cooperativa Samarcanda. Ci sono una serie di servizi dedicati al cliente che vanno dalla lettura dei giornali alla possibilità di organizzarsi la propria giornata di lavoro, gli spostamenti o quant'altro, vogliamo puntare i riflettori sulla possibilità di fare un tour virtuale all'interno della città attraverso la geolocalizzazione e andare a visualizzare tutti i punti di interesse della nostra città. Fammi un esempio di questa particolare mappa interattiva che avete ideato e che avete inserito in questa app. Per esempio, passando di fianco al Colosseo si apre una finestra dedicata in cui non solo abbiamo la foto del monumento stesso, ma abbiamo una breve descrizione del monumento e della storia dello stesso. Naturalmente stiamo parlando di tecnologie, di un uso molto semplice delle tecnologie, ma mi sembra un buon esempio di un settore dove difficile fare innovazione, perché al massimo su un taxi si compra l'automobile nuova, si può abbellire l'automobile, magari si prende il POS per offrire la carta di credito ai clienti. E in questo caso invece Samarcanda si è inventata questa novità, cioè un tablet con un'app. Il cliente sceglie che cosa fare, magari per vedere le previsioni del tempo, vedere l'orario del teatro alla sera, eccetera eccetera. L'uso della tecnologia è soprattutto, lo diciamo tante volte, un atteggiamento culturale. Il mondo si divide tra quelli che dicono no, costa troppo, non so cosa serve, non serve a nulla addirittura, e quelli che invece capiscono che non si può guardare al passato, capiscono ad esempio che il wifi negli alberghi non è più un optional ma una necessità, accettare i pagamenti elettronici ormai obbligatorio, avere il sito web ottimizzato per smartphone è per molti una necessità. Insomma, sono tantissimi gli esempi. Allora, a proposito di applicazioni, è notizia di questa settimana che Windows Store, l'App Store lanciato da Microsoft in occasione dell'arrivo di Windows 8 e Windows RT, ha raggiunto quota 20.000 applicazioni. L'87% sono gratuite, non tutte le app, va detto, sono disponibili su tutti i mercati, quindi magari per il mercato italiano ce ne sono solo 10.000 di queste 20.000. Questo delle app è un mercato in forte crescita, pensate che ci sono circa 700.000 applicazioni sia sull'App Store di Apple che su Google Play, il negozio per Android. Le applicazioni e i siti ottimizzati per mobile sono oramai una necessità per molti, e c'è una società italiana, una startup italiana che si chiama Apps Builder, che ha lanciato un servizio per farsi online la propria app, o potrei dire le proprie app. Allora, saluto, do il benvenuto a Daniele Pelleri, che è uno dei fondatori di Apps Builder. Benvenuto 2024. Grazie, buongiorno a tutti. A proposito di app, ti chiedo subito che cosa ritieni sia oggi più usabile tra le applicazioni, tra i sistemi di applicazioni, e che cosa invece preferisci tu? Sicuramente come usabilità al primo posto metto Apple, perché sono leader nel mercato per aver ideato un dispositivo che con un tasto fai tutto. Quindi ancora oggi tu ritieni che come usabilità sia Apple da preferire? Apple al primo posto. A livello personale però io arrivo da open source, da Linux, eccetera eccetera, quindi la mia passione è sfrenata verso Android, verso il robottino. Anche se sta guadagnando terreno Windows, soprattutto Windows Phone 8, che è interessante, secondo me è da guardare e seguire molto attentamente la sua evoluzione, proprio perché secondo me ci può stupire molto. Quindi per usabilità o per altro tipo di cose? Per entrambe le cose, sia per usabilità che per, appunto, per funzionalità. Quindi interessante. Secondo me Windows 8 potrebbe riservarci gradevoli sorprese. Tutta la famiglia, cioè Windows 8, Windows RT. Esatto, Windows Phone 8, eccetera. Questa modalità a tasselli, cioè a quadrettoni, ti piace? Esatto, sì, sì, sì. E da abituarsi, perché comunque la curva di apprendimento per aver comunque cambiato totalmente la filosofia desktop è una cosa che comunque arriva col tempo. Però è interessante sicuramente vedere cose nuove, a me personalmente piace, quindi... Sì, sì. Senti, che cosa ne pensi di gli altri store? Quindi, perché abbiamo parlato dell'App Store, abbiamo parlato del Windows Store, che è il nuovo store di Microsoft, naturalmente di Google Play, che è lo store per Android. Gli altri, quello tipo Apps World di RIM, ormai ha perso la gara? No, assolutamente, anzi... Io sono stato anche personalmente a qualche presentazione di RIM per BlackBerry 10, c'è molto interesse anche qui. Noi personalmente comunque abbiamo anche comunque dei contatti con RIM e stiamo cercando di attrezzare la nostra piattaforma per l'App World, quindi per tutte le app utilizzabili su BlackBerry 10. Ti piace BlackBerry 10? Non l'ho provato ancora BlackBerry 10. Vedo la filosofia che c'è dietro e la passione delle persone che lavorano in RIM, che comunque è forte, e quindi anche quello secondo me potrebbe, non dico che sono, non è vero che sono morti, quello io non lo penso. Dunque, voi siete una startup che produce app, permette a me utente finale, a me piccola azienda o agenzia che propone ai propri clienti le applicazioni, fornite un servizio per produrre app. Prima di parlare delle app però vorrei parlare di HTML5, ma senza essere troppo tecnici, senza essere troppo difficili, però una filosofia molto interessante, cioè voi dite non esiste solo il mondo delle app, ma esiste anche quel mondo del web, quindi dei siti internet ottimizzati per essere visti sul telefonino. Perché dite che è molto interessante e che crescerà molto questo mercato? Principalmente per due fattori. Il primo è perché attendere gli utenti che utilizzano il web cercano le small agency, quindi le PMI, attraverso motori di ricerca e non attraverso l'App Store. Quindi avere un proprio sito ottimizzato mobile, che per esempio quando l'utente ti cerca su Google e atterra su un sito ottimizzato per mobile, è facile da utilizzarlo, perché nel sito noi forniremo tre informazioni principali: sarà chiamami, il dove sono e il che cosa faccio. Quindi avere un'app nativa, quindi un'app distribuita all'interno di uno store, non ha senso per un ristoratore, un hotel. Allora spiego se ho capito, cioè spiego a te e spiego agli ascoltatori quello che ho capito. Allora noi siamo abituati oggi a un mondo delle app che è frammentato e io già da molto tempo dico che mentre il web è un mondo standard e con tutti gli strumenti che abbiamo, quindi con uno smartphone, con un tablet, con un computer, possiamo andare su un sito internet tranquillamente, il mondo delle app ci ha abituato ad una frammentazione. Quindi se io ho un terminale Apple devo avere l'app per Apple, se ho un terminale Android devo avere l'app per Android e così via con Windows, con BlackBerry eccetera eccetera. Ad esempio se cambio terminale, se io prima avevo un'app per Apple, cambio terminale, vado con Android, devo riscaricare quell'applicazione. Se invece io avessi la possibilità di avere siti web creati per essere visti su un terminale mobile, quindi website, mobile site si dice così, non avrei bisogno di fare tutto questo procedimento complesso. Esatto. Ma perché non si affermano le versioni mobile dei siti web? Bella domanda. Non si affermano, o meglio, si affermeranno, ma ancora oggi non lo è, perché oggi è un valore aggiunto che si percepisce è essere presenti all'interno degli app store. Quindi avere l'app. Avere l'app fa figo, detto in parole semplici. Sì. Quindi oggi l'albergatore percepisce come un valore aggiunto dire al proprio cliente vai su iTunes e scaricati la mia app. Ma non è in realtà legato poi come al tuo business avere l'app sull'App Store. L'importante è essere trovati e che l'utente utilizza le informazioni che tu, albergatore, ristoratore, vuoi dare in modo semplice e usabile. All'inizio noi abbiamo parlato di qual è la cosa più usabile, più semplice, noi abbiamo detto Apple. E la stessa cosa deve essere trasferita su un mobile site, quindi deve essere semplice e usabile. Per esempio, come dicevamo prima, se io sono un hotel, con un click ti devo chiamare per sapere se hai una stanza libera. Sì, esatto. Voi fornite, dicevo all'inizio che voi siete una startup, avete un paio di anni di vita, un poco più di un anno? Sì, un anno e mezzo. Allora, fornite un servizio. Che cos'è questo servizio? Noi forniamo un servizio che è suddiviso in due principali funzionalità. Il primo è che in un semplice passaggio, in circa 10 minuti, chiunque senza avere competenze tecniche è in grado di sviluppare un'app per telefonini e per tablet in 6 versioni differenti. Come dicevamo prima, per iPhone, per iPad, per BlackBerry, per Windows, per Android e via dicendo. Il secondo fattore principale è legato invece agli aggiornamenti dell'app, quindi quando io ho creato l'app e l'ho pubblicizzata e l'ho distribuita ai miei clienti, sempre utilizzando la piattaforma Apps Builder, sono in grado di aggiornare l'app che i miei clienti hanno precedentemente già scaricato in momento in cui io ho promosso l'app, e di conseguenza attraverso Apps Builder l'utente può aggiornare l'app in tempo reale senza appunto perdere tempo in ripubblicare l'app quindi voi fornite una serie di applicazioni in multipiattaforma, si dice così, esatto, e anche però la parte mobile, cioè fate anche create il mobile site, certo, entrambe le cose, sia l'app nativa, quindi per distribuirla sugli store, sia il mobile site in HTML5. Voi credete molto, ma non, fortunatamente non solo voi, che questo mercato cresca moltissimo. Ci dai un'idea di che cosa sta succedendo nel mondo mobile? Certo. Guardiamo velocemente i numeri che delle applicazioni pubblicate sui vari store. Su iTunes ci sono circa 750.000 app pubblicate, su Google Play ce ne sono circa 630.000 di applicazioni pubblicate. In totale ci sono 25 miliardi di download, quindi diciamo che è un mondo che si muove molto in fretta. Recentemente Windows ha detto che in 2 settimane hanno pubblicato 20.000 app, quindi tutti vogliono l'app. È un momento in cui appunto avere un sito web forse non basta più. Esatto, bisogna avere per forza l'app oggi. Sì, diciamo che, per collegarsi a quello che dicevi tu prima, non basta più avere il sito web, ci vuole il sito web ottimizzato per il mobile e magari anche l'app. Senti, sempre a proposito di traffico e di boom di questo settore, che cosa vedi di interessante? Ad esempio, noi prima di entrare nello studio parlavamo di M-commerce, di mobile commerce. Cosa ti piace? Cosa ritieni che sia interessante da osservare sul mercato? Faccio l'esempio di 2 giorni fa, di ieri, del Black Friday, quando Fab, un sito e-commerce che sta esplodendo soprattutto in America, ha detto che i numeri sul mercato mobile sono esplosi, hanno avuto un sacco di acquisti da telefonini, al contrario che si aspettavano appunto che arrivassero da desktop. Quindi questo ci fa pensare che l'acquisto tramite app e tramite smartphone è un mondo che veramente sta crescendo a dismisura, e anche se sembra strano oggi acquistare soprattutto dalle persone in Italia da telefono in giro per il mondo, fidatevi che in realtà le persone comprano da mobile. In effetti io ho parlato anche recentemente con persone che hanno creato piattaforme per l'e-commerce, appunto il mobile commerce, e citavano appunto numeri incredibili, e loro ritengono che nei prossimi anni molte delle cose, magari non tutto, però effettivamente, così come ancora oggi io mi stupisco che ci sia chi compra abbigliamento dal computer, ma poi parlando con queste signore che comprano, capisco, non ci dobbiamo stupire che si compri, e lo sarà sempre di più su mobile. Senti, a proposito di servizi che voi fornite, tu dici tutto quello che voi fornite ai clienti, ai vostri clienti, uno lo potrebbe fare andando in un'agenzia, giusto? Esatto. In modo più complicato. Esatto. Qual è la differenza? La differenza sostanziale è che attraverso la nostra piattaforma chiunque è in grado di sviluppare l'app, promuoverla e pubblicarla sugli store, e una volta che l'app è pubblicata sugli store, senza dover chiedere nuovamente all'agenzia che nel caso precedente appunto ti avesse sviluppato l'app e quindi non avessi usato Apps Builder, ti riprende in mano l'app, la risottomette sugli store, e questo implica un aggiornamento costante dell'app, perché se tu non aggiorni l'app nessuno ha interesse di riaprire la tua app per vedere che cambiamenti ci sono stati. Sì, un po' come il sito internet. Esatto. Se è morto. Se è morto e non aggiorni i contenuti del tuo sito internet, nessuno torna a vedere il sito, che novità ci sono. Sì, poi ci sono anche degli aggiornamenti, diciamo, tecnici, perché cambiano i sistemi operativi, per motivi di sicurezza, eccetera. E con la nostra piattaforma questo è possibile farlo in tempo reale. Quindi, qualora uno avesse la necessità di aggiornare la propria app senza richiamare il consulente che ti ha creato l'app precedentemente, con il nostro sito puoi fare le modifiche, apportando appunto sia a livello grafico che di struttura che di contenuti, salvando l'app attraverso un pulsante, l'app si aggiorna in tempo reale, e quindi questo ti aiuta a essere molto più veloce, sia in termini di aggiornamento sia in tempi appunto anche economici, perché il nostro servizio è veramente economico. A proposito di economicità, quanto costa? 19 euro al mese se uno è interessato a pubblicare l'app sugli App Store. Se uno è interessato al servizio mobile, quindi a utilizzare l'app in HTML5, il servizio è gratuito. Hai comunque 30 giorni di prova per testare tutte le funzionalità del nostro sito con l'account Advance, che è l'account, diciamo, che possiede tutte le funzionalità disponibili sulla piattaforma, e valutare poi, dopo la scadere del 30° giorno, se continuare a utilizzare il servizio o con le applicazioni native o utilizzare il mobile site. Sì. Ti faccio dire una cosa che può sembrare un particolare da poco, ma è interessante. Se io dopo 6 mesi mi sono stancato e non voglio più, tranquillamente puoi cancellarti dal nostro servizio. Noi non obblighiamo nessuno, non c'è nessun contratto, ti cancelli in ogni tempo, in ogni momento, quindi sì, sei libero di fare, esatto, il tuo business. Questo è importante perché innanzitutto voi vi rivolgete prevalentemente al mercato estero, cioè siete italiani, sviluppati in Italia, però esatto, il vostro mercato è il mondo. Sì. E se operaste non dico nella classica, però nella maniera con cui molte aziende, pensiamo ad esempio alle società di telecomunicazione in Italia, che ti vincolano e vogliono che tu rimanga attaccato al loro business per tanto tempo, esatto, non funzionerebbe. Esatto, esatto. Noi, come dicevi prima, abbiamo il 70% dei clienti che sono esteri e non possiamo proprio, anche perché appunto essendo molti americani, vincolare i nostri utenti a utilizzare la nostra piattaforma per sempre. Noi crediamo comunque nel nostro prodotto e non abbiamo bisogno di contratti che ti vincolano, esatto, per 2 anni, perché comunque alla fine se una persona si trova bene con un prodotto è la conseguenza che appunto rimane con noi. Sì. Senti, i vostri concorrenti, anche quelli sono stranieri? Esatto, i nostri concorrenti sono stranieri, soprattutto appunto come dicevo prima americano, perché comunque il mercato in America è enorme. Anche loro però sono molto più verticali su settori, per esempio la musica, quindi band musicali piuttosto che editori. Quindi noi invece ci rivolgiamo a un pubblico a 360 gradi, in particolar modo a web agency o comunque agenzie di comunicazione che vogliono utilizzare la nostra piattaforma per non strutturarsi internamente con un team di sviluppo e quindi, utilizzando il nostro prodotto, distribuire le applicazioni mobile direttamente ai loro clienti senza appunto creare un team tecnico, sì, di sviluppo all'interno. Certo, voi dite, noi la piattaforma ce l'abbiamo già, la tecnologia ce l'abbiamo già, perché un'agenzia dovrebbe, almeno per un certo tipo di pubblico, un certo tipo di clientela, organizzarsi per rifare delle app. Ma il fatto che uno venga sul vostro sito internet e si possa creare la propria app, in qualche modo però non vincola il cliente a poca personalizzazione, template molto simili, cioè non è che poi tutte le app sono tutte uguali? Assolutamente no. La nostra piattaforma è stata proprio pensata anche per questo, perché con piccole modifiche uno è in grado di fare caricamenti di propri loghi, di proprie immagini, di propri pulsanti, icone, e attraverso la nostra piattaforma uno è in grado di personalizzare dallo sfondo dell'intestazione di una pagina al colore, alla formattazione, allo stile del singolo testo e carattere. Quindi creare un'app proprio diversa dalle altre. Esatto, esatto. Uno è in grado proprio sia a livello di struttura, quindi come si presenta l'app al momento in cui una persona apre l'app per la prima volta, quindi il menu, se è fatto a lista, griglia, eccetera, sì. Sia a livello poi grafico, quindi personalizzando colori, background e via dicendo. Sì. Senti, se io ho già un sito web, perché naturalmente questo è accaduto negli anni passati, che anche magari piccole aziende, io sostengo che anche l'idraulico dovrebbe avere il sito web, però non è che è facile farsi capire. Se io ho già un sito web e volessi fare più che la app il sito mobile, cioè un sito che vedo con uno smartphone molto semplicemente, mi fate anche questo? Cioè prendete i contenuti dal mio sito web? Esatto, o devo, esatto, rifare tutto? Assolutamente no. Grazie Apps Builder abbiamo creato questo tool proprio anche per persone che possiedono siti web, domini, e quindi semplicemente inserendo l'indirizzo del tuo sito web e cliccando su importa, noi importiamo tutto il contenuto e la struttura del sito all'interno dell'app e l'adattiamo per i tablet e gli smartphone. Quindi l'utente che poi atterra e visita il tuo sito web con uno smartphone vedrà il tuo sito ottimizzato per uno schermo molto più ridotto, con dimensioni molto più piccole, e questo appunto consente indubbiamente la facilità sia di aggiornamento di un'app, perché appena pubblichi un contenuto nuovo sul tuo sito, questo contenuto viene replicato in formato ottimizzato all'interno della tua applicazione, sia appunto la facilità e la navigazione di un utente che appunto da uno smartphone ha uno schermo molto più ridotto e quindi le informazioni le deve trovare molto più facilmente. Cioè, oppure uno fa anche solamente il sito HTML5 solo mobile, e in questo caso è gratuito. Esatto, esatto. Uno, utilizzando la nostra piattaforma, può crearsi il suo sito mobile gratuitamente, lo distribuisce ai suoi clienti tramite per esempio un QR code, quindi un codice che le persone sono in grado di scannerizzare con la propria fotocamera, la quale poi fa direttamente utilizzare l'app all'interno del proprio telefono, salvandolo come un'app cioè, questo classica. QR code dove lo prende? Che ne so, il nostro idraulico che si vuole, esatto, fare il... da Apps Builder, in questo pannello che poi appunto si ritrova alla fine del processo di creazione dell'app, può scaricare come un'immagine, quindi il QR code, oppure chiedere e se lo mette sul furgone. E se lo mette sul furgone, sulle ricevute, se sei un bar, sul menu del ristorante e via dicendo. Sì, sì. Senti, in questo caso io dicevo, se uno vuole questo servizio minimo, è gratuito. In questo caso come fate i soldi voi? Noi lì adottiamo mettiamo delle pubblicità nostre all'interno dell'applicazione. Quindi l'utente, se accetta la pubblicazione di appunto contenuti, banner pubblicitari di Apps Builder, può utilizzare il servizio gratuitamente. Diciamo che uno può iniziare così. Esatto. Comincia a capire e poi gli piace, poi magari fa gli upgrade con le app, esatto, eccetera, esatto, eccetera. Senti, mi dai una motivazione, perché forse noi lo sappiamo, ma non tutti lo sanno, perché un idraulico dovrebbe avere il proprio mobile site o comunque una piccola attività? Insomma, le grandi aziende ormai lo hanno capito e ce lo hanno. Allora, non tutte, perché anche sulle grandi aziende il mobile site non è detto che ci sia, però i piccoli. Se le persone vogliono essere trovate, il miglior modo, una volta si usava pagine gialle comparendo all'interno appunto di una guida, eccetera. Oggi le persone cercano i servizi su internet, appunto proprio perché tutti ormai o quasi tutti possiedono uno smartphone collegato a internet, e il modo più veloce è consultarlo tramite per esempio Google o altri portali di informazione. Quindi anche l'idraulico deve possedere soprattutto un sito mobile, perché gli utenti che cercano idraulici o qualsiasi lo fanno altra, sempre lo di fanno più dallo sempre smartphone. Più. Esatto, esatto. Senti, tu hai 27 anni, il tuo socio? 25. 25. Quanti siete? Oggi siamo in 15. Il nostro team tecnico è basato a Catania. Anche se tu e il tuo socio non siete di Catania. Esatto, esatto, no, assolutamente. Io sono di Torino e il mio socio è del Burkina Faso. Quante applicazioni avete già creato, cioè quanti sono i vostri clienti? Allora, il nostro servizio è stato provato da più di 300.000 persone. Ad oggi la nostra community è sui 200.000 sviluppatori. Quindi diciamo che noi vogliamo comunque continuare ovviamente a crescere, e vediamo che giorno dopo giorno questi numeri crescono veramente in maniera molto veloce, e tutto questo comunque si prospetta molto interessante. Ecco. Bene Daniele, io ti ringrazio, ti auguro in bocca al lupo a te, al tuo socio, insomma al tuo team, e buon lavoro a questo Grazie. Punto. Ciao a tutti. Mercato molto interessante, speriamo insomma che molti abbiano compreso l'importanza del mondo mobile e di internet in mobilità, e naturalmente tutte le modalità per farsi trovare su internet in mobilità. Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it, bentornato a 2024. Ciao Gianfranco. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Dunque, noi oggi parleremo di interferenze tra 4G, abbiamo deciso di chiamarlo 4G e non più LTE. Basta. Nella seconda parte di 2024, per parlare di questo saranno con noi anche due ospiti. Vi ricordo il nostro numero verde 800240024. A tra poco. 2024. Riprende 2024, la seconda puntata del nostro programma. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Anche questa puntata, come tutte le nostre puntate, sarà disponibile poco dopo il termine, più tardi comunque entro le 18.30. Questo è l'impegno che ho preso io personalmente con i nostri ascoltatori sul sistema podcast di Radio 24. Il podcast è una modalità molto bella per riascoltare i nostri programmi, anzi io penso che sia parte del futuro della radio, soprattutto della radio di parola. Sono le 16:08 minuti, potete chiamare il nostro numero verde 800240024 per parlare di telefonia di quarta generazione, quindi il famoso 4G che è stato già lanciato da alcuni operatori in alcune città e gradualmente si estenderà anche nel paese. C'era molta attesa, ma assieme alla banda larga ultramobile arrivano anche alcuni problemi, e oggi cerchiamo di capire quali sono questi problemi e soprattutto qual è la dimensione di questo problema, perché il 4G disturba, questo è un dato certo, disturba in una piccola o grande, questo appunto lo decideremo, area del paese la TV digitale terrestre, e alcuni poco appassionati di TV potrebbero dire beh chi se ne frega, cioè diciamo che chi, anzi dice beh, ben venga il disturbo alla TV così molta più gente ascolta la radio, ma non è qui il problema. Allora, abbiamo già salutato poco fa Gianfranco Giardina, che dirige il magazine digitale D-Day.it, uno dei punti di riferimento per la tecnologia in Italia. Allora Gianfranco, spieghiamo qual è il problema e oggi poi con l'aiuto dei nostri ospiti cercheremo di capire quali sono le dimensioni di questo problema e anche quando ci sarà il problema. Allora, le reti 4G permetteranno in realtà, man mano sono state accese proprio da qualche giorno, la comunicazione, dati, mobilità a velocità potenzialmente incredibili, quindi di oltre 300 megabit al secondo, quindi anche più veloce di quanto siamo abituati nelle migliori situazioni residenziali. E quindi è sicuramente una grande leva del progresso digitale tecnologico anche italiano. Si sa quanto noi siamo legati alle comunicazioni anche via cellulare, che tipo di popolarità stanno avendo le connessioni internet in mobilità, e quindi è sicuramente un grandissimo passo avanti. Dopodiché la tecnologia 4G viene applicata su diverse bande di frequenza a seconda anche delle nazioni, può cambiare anche da paese in paese. Per l'Italia ci sono fondamentalmente due bande che sono quella 1008 e quella 2006, che erano prima utilizzati per altri usi o per la telefonia stessa, ma c'è tutta una parte che è stata sottratta o sta per essere sottratta alla diffusione radiotelevisiva nella banda che chiamiamo per semplicità degli 800 MHz. Queste erano frequenze, quelle che siamo abituati a chiamare come frequenze televisive dal 61 al 69, che devono essere liberate dai canali televisivi per essere assegnate alla telefonia 4G. Tra l'altro sono frequenze anche interessanti per i gestori, perché avendo una lunghezza d'onda maggiore e quindi una frequenza minore, sono meglio in grado di superare degli ostacoli, entrano in casa e hanno una portata migliore. Adesso, quindi traducendo, cioè, uno poi questo è già successo con il 3G, è dentro un palazzo, dice non prende il telefonino in 3G dentro al palazzo, questo è diciamo è dovuto alle frequenze. Sì, quindi, ci sono frequenze che penetrano meglio e frequenze che penetrano peggio. Questa sì, è una frequenza buona. Ha un difetto fondamentale che, si sa, l'etere è una risorsa scarsa. Le frequenze che sono state assegnate al 4G sono vicinissime, drammaticamente vicine a quelle del digitale terrestre, direi quasi attaccate. Cioè il canale 60 del digitale terrestre è praticamente adiacente ai primi canali dell'LTE, anzi del 4G, ben detto, chiamano 4G. Sì, no, io lo rispiego agli ascoltatori, abbiamo deciso di non chiamarlo più LTE perché lo si chiamava LTE 4, 5, 6 anni fa, quando c'erano le prime sperimentazioni, e LTE vuol dire Long Term Evolution, evoluzione di lungo termine. Visto che oggi c'è, abbiamo deciso di chiamarlo 4G, punto. Se non ha senso. No, esatto, no, Long Term Evolution. Dico anche che, questo lo ricordiamo, allora queste frequenze sono state messe all'asta dallo Stato, che le ha assegnate ai quattro operatori di telefonia mobile per la bellezza di quasi 4 miliardi di euro. 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, come tu hai ricordato. Allora, la parte di frequenze che è più vicina alla TV e quindi che è soggetta alle interferenze con la TV digitale terrestre, se la sono comprata in maggior parte wind, e anche Telecom e Vodafone. Tre non ha queste frequenze, quindi non ha nessuno di questi problemi. Poi non ha vinto l'asta, diciamo così, per quelle frequenze lì, le ha vinte sulle altre bande. Sì. Ecco, va detto che queste frequenze si potranno accendere in modalità 4G dal 1 gennaio 2013, quindi ancora non c'è nulla di acceso in 4G su queste frequenze, quindi anche tutto quello che fino ad oggi sappiamo, di cui parleremo oggi, delle possibili interferenze, si basa sulle esperienze che sono già state vissute all'estero, piuttosto che sulle sperimentazioni che sono state fatte, che hanno dato degli esiti che ovviamente sono esiti, diciamo, di laboratorio poco più, e che poi si scontreranno con la situazione reale, che è anche molto difficile da prevedere, perché queste interferenze non è che nascono solo ed esclusivamente per il fatto che ci siano delle frequenze adiacenti, nascono fondamentalmente perché la potenza di LTE è importante, è una potenza di emissione importante, e poi ovviamente in considerazione della qualità dell'impianto di antenna sul quale questo segnale va a impattare. Un impianto d'antenna ben fatto, isolato, si dimostra sicuramente solido di fronte a questi possibili attacchi, diciamo così, mentre impianti un pochino più datati o forse non così a regola d'arte potrebbero essere molto sensibili, quindi sarà veramente è difficile prevedere cosa accadrà. Quindi possiamo anche dire che, perché alcuni potrebbero dire, ma non ci potevano pensare prima? No, o ni. Perché? Beh, pensarci prima, a dire il vero, poteva solo essere garantirsi, ma è un lavoro che doveva partire molto da lontano e quindi negli anni, garantirsi che il parco installato di impianti di antenna televisiva fosse in qualche modo certificato o fossero fatte delle procedure obbligatorie, quantomeno sui livelli di schermatura, sui cablaggio da utilizzare. Siccome questo non c'è e ognuno può farsi il proprio impianto antenna in casa volendo, quale sarà poi l'impatto sulle famiglie italiane lo si scoprirà soltanto. Qual è la qualità delle antenne in Italia che ricevono la TV? Non lo sappiamo per bene. Sono le 16:15 minuti, il nostro numero verde 800 24 00 24. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Potete contattarci anche via Facebook o anche via Twitter, @e_pagliarini, per mandarmi un messaggio. Saluto i nostri ospiti, l'ingegnere Mario Frullone, il direttore delle ricerche della Fondazione Ugo Bordoni. Ingegnere, benvenuto a 2024. Salve, grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. Allora, collegato con noi via Skype, vediamo se la connessione... Ci garantisce una buona qualità, se no poi la richiamiamo al telefono. Diciamo subito una cosa, ingegnere, che la Fondazione Ugo Bordoni è, possiamo dire, il braccio tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico per la parte delle comunicazioni in questo caso. Sì, è corretto, noi siamo appunto un istituto che ha un lungo passato di ricerca nel campo delle telecomunicazioni e che alla ricerca sta affiancando negli anni più recenti appunto un'azione di supporto operativo a tutte le problematiche che sono interesse del Ministero, quindi dalla transizione digitale terrestre e adesso più recentemente a questo problema dell'interferenza tra sistemi di quarta generazione e sistemi televisivi. Nello Genovese è il vicepresidente di Fracarro Radio Industrie, benvenuto a 2024 Genovese. Grazie, buonasera. Voi producete che tipo di sistemi? Sistemi che vanno poi sulle antenne di tutti gli italiani, dei cittadini. Noi produciamo tutto quello che serve per ricevere segnali televisivi all'interno di un edificio, sia dall'antenna all'amplificatore alla distribuzione. Ecco, in questo contesto, secondo voi, quali sono e quali saranno i problemi? Come ha detto prima il signor Gianfranco, non ci sono ancora dati oggettivi sulle possibili interferenze, però è vero che se gli impianti sono fatti a regola d'arte, l'unico vero problema sarà quello di mettere un filtro in ingresso dall'antenna per tagliare le frequenze che saranno destinate al 4G. Se invece gli impianti non saranno fatti bene, ci potranno essere dei problemi di rivisitazione totale dell'impianto. Voi avete già fatto delle stime sull'impatto che potrà avere questo problema? Stime di buon senso, conoscendo un po' l'installato italiano, noi prevediamo che ci sarà abbastanza caos, soprattutto dove verranno usate le frequenze appunto sugli 800 MHz, perché molti impianti ahimè non sono stati fatti secondo quello che viene definita la regola d'arte. E che cosa, in base alle vostre previsioni, che cosa dovrà fare un cittadino che comincerà a avere problemi sulla ricezione televisiva? Chiamare sicuramente un installatore per verificare lo stato dell'impianto, dopodiché la prima fase, se l'impianto è fatto bene, inserire un filtro in antenna o appena prima dell'ingresso sull'amplificatore. Questo dovrebbe già dare una soluzione. Se poi il segnale è molto forte, o meglio, si è molto vicini alla sorgente del segnale, i ripetitori, come si diceva prima, il segnale potrebbe entrare anche nell'edificio, per cui i cavi non schermati, i partitori non schermati potrebbero fare entrare questo segnale, che vorrebbe dire rivedere l'intera cablatura distribuzione all'interno dell'edificio. Ci può fare una stima di un costo di un'operazione del genere? Fare una stima è molto difficile. Parliamo di un impianto singolo, per cui di un'abitazione singola dove c'è un'antenna, un piccolo amplificatore, due o tre pese. Il costo potrebbe girarsi su qualche centinaio di euro, mentre se andiamo su impianti centralizzati complessi dove c'è una distribuzione fatta a più condomini, per cui 50-100 prese, potrebbe essere di 1.000-2.000 euro, però viene suddiviso poi quota a parte, per cui certo. Il costo unitario è comunque di qualche 100 euro. Sì. Ingegner Frullone, l'abbiamo collegata via telefono, in questo caso sì. Preferiamo la qualità del telefono. Poi torniamo anche sul problema per descriverlo meglio, però chi pagherà questi costi? Cioè facciamo l'ipotesi, perché comunque qualcuno, poi vediamo se sono molti o sono pochi questi italiani, qualche italiano, qualche famiglia italiana avrà qualche disturbo generato dalle frequenze della telefonia di quarta generazione sulla ricezione televisiva. E quindi comunque sia per alcuni dovrà essere fatto un intervento sull'antenna. Chi paga? Sì, adesso io prima di dare la risposta sul chi paga, che ovviamente è la più interessante come domanda, ecco, però vorrei dire qualcosa su quello che ho sentito, anche se ho avuto degli stati in cui purtroppo non sono stato collegato per problemi appunto di qualità del collegamento. Volevo dire, mi è sembrato di capire all'inizio che sia passato un po' il messaggio che avranno problemi i sistemi di antenna fatti male. Se questo non sarà così, cioè avranno problemi anche sistemi di antenna fatti a regola d'arte, insomma. Quindi non so se sia una buona notizia o una cattiva notizia, ma il problema è appunto un problema importante, perché riguarda anche i sistemi di antenna fatti bene. E poi spiegherò se vorrà un pochino i motivi di questa mia affermazione. Per quanto riguarda invece chi sosterrà i costi, c'è un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico al quale partecipano anche gli operatori che avete citato prima, quindi Wind, Vodafone e Telecom, quindi gli operatori che operano questa banda a 800 MHz, e i tre operatori hanno già dato la propria disponibilità a farsi carico di questi oneri. Quindi abbiamo ovviamente due grossi punti di domanda ancora ancora aperti. Il primo è quale è la più corretta ripartizione dei costi fra di loro, ma questo diciamo importa poco al cittadino, all'utente finale, insomma. E la seconda domanda è qual è il volume complessivo di questa operazione, che si traduce appunto in interventi che hanno un costo molto importante per degli operatori che hanno già, come avete correttamente ricordato prima, sostenuto gli oneri di un'asta che hanno portato solo per questa banda 800 MHz a sborsare più di 3 miliardi di euro, insomma, quindi delle cifre colossali che però non sono ancora sufficienti a consentirgli di utilizzare queste frequenze. Certo, dico agli ascoltatori che noi naturalmente abbiamo invitato chiamiamolo al tavolo di Radio 24 anche gli operatori di telefonia mobile, partendo da Wind, perché metà dei problemi e metà delle frequenze, tant'è che si sta discutendo grosso modo di un 50% degli oneri per pagare questo adeguamento delle infrastrutture d'antenna a carico di Wind, grosso modo il 50%, come magari l'ingegnere ci precisa, un 25% a carico di Telecom e di Vodafone. Noi abbiamo invitato naturalmente Wind, che però ci ha detto che non hanno praticamente nulla da aggiungere a quello che si è detto al tavolo, però sarebbe stato bello sentire la loro voce. Stessa cosa ce l'hanno detta Vodafone e TIM. Naturalmente la diplomazia consiglia agli operatori di star zitti e far parlare gli altri. Io non sono d'accordo, però ognuno poi decide quello che vuole. Ingegnere, è così? Cioè, grosso modo, Wind deve pagare il 50% e gli altri adesso due? Diciamo che l'ordine di grandezza può essere appunto quello, anche se adesso è uno dei punti delicati, quindi quella della esatta quantificazione di queste percentuali, quindi adesso io non per nessuna cosa al mondo dirò se 50, 48, 46, 52, proprio non, però volevo precisare che si tratta più che di un problema legato alla quantità di frequenze disponibili, è un problema legato alla posizione di queste frequenze. Mi spiego meglio, le bande che hanno i tre operatori sono per tutti e tre delle bande accoppiate di 10 più 10 MHz, quindi 20 MHz in totale per ognuno di loro, ma i 10 MHz di Wind sono proprio a fianco al canale 60. Questo è il problema, diciamo, che è la motivazione tecnica che porta a immaginare una maggiore responsabilità da parte di Wind per queste, sì, per queste, senta, per questi effetti. A chi dice non ci si poteva pensare prima, come si può rispondere? Naturalmente qui. Questa cosa fa parte anche della precisazione che volevo fare riguardo al problema dei sistemi di antenne. Cioè, noi qui abbiamo preso, come è stato correttamente detto, delle frequenze televisive, canale 61-69, e le abbiamo trasformate in frequenze per applicazioni wireless. Allora, è evidente che tutti i filtri, gli amplificatori che abbiamo sui nostri tetti, che fino a quest'anno sono stati previsti e progettati per amplificare anche i canali da 61 a 69, è evidente che si troveranno ad amplificare anche i segnali della quarta generazione. Il disturbo, ovviamente, insomma. Sì, che quindi alla fine amplificheranno un disturbo con un doppio effetto, che spesso, e questo è l'effetto più importante, noi ci troveremo, nonostante le potenze della quarta generazione siano potenze molto ridotte, ma ci troviamo con, come sappiamo benissimo, le antenne del radiomobile, dei cellulari, sono su tutti i tetti, su molti tetti delle nostre città, mentre le antenne dei trasmettitori televisivi sono tipicamente molto lontane. Quindi ci troveremo con i trasmettitori delle stazioni base dei cellulari molto vicini alle antenne riceventi televisive, per cui gli amplificatori che sono sui nostri tetti andranno, come si dice, in saturazione. Sì, sì, sì. E quindi questo sarà un effetto, non tanto perché le potenze, non vorrei che poi le potenze siano particolarmente elevate, ma perché le distanze in gioco sono ravvicinate, sono, certo, molto molto più piccole di quanto normalmente un'antenna televisiva si aspetta. Sì, sì. E quindi questi amplificatori vanno in saturazione e quindi in questo caso non si vede proprio più nulla. Non si vede più la TV. Senta, a proposito del non ci si poteva pensare prima, dico una cosa, poi lei mi corregge. Dice se era implicito, come è inevitabile. Sì, insomma, sì, sì. Ecco, no, dico anche che, allora, è evidente che se uno avesse tante frequenze a disposizione, uno potrebbe lasciare degli spazi tra una frequenza e l'altra per non disturbare. Ma visto che l'Unione Europea dice, giustamente, dobbiamo cercare di portare sull'etere, quindi mettere a disposizione delle frequenze per internet in mobilità, e le frequenze sono poche, è gioco forza che poi da qualche parte ci siano delle interferenze, perché una frequenza quasi combacia, cioè va vicino all'altra, che è in questo caso è proprio così. È perfetto, ve l'ho già detto, io come dire lo sottoscrivo, anzi lo rafforzo, perché certamente mi sembra di ricordare anche che ne abbiate già parlato in qualche altra trasmissione. Addirittura noi vediamo in prospettiva anche un'altra banda, la banda dei 700 MHz, che fra qualche anno verrà anche questa spostata verso la telefonia mobile, verso internet a banda larga, quindi wireless. E quindi si tratta proprio di una tendenza a livello mondiale, ma poi una tendenza legata ancora più ampia e sostanziale della tendenza, diciamo, allo spostamento di equilibri tra televisione e telefonia cellulare. È un problema legato al fatto che le frequenze sono così preziose che in generale si tende dappertutto ad operarle preferibilmente per applicazioni in mobilità. Quindi c'è una grossa tendenza a livello mondiale per cui tutto ciò che riguarda la ricezione di telecomunicazioni con postazioni fisse, come è il caso della televisione di casa, come tendenza si vuol portare verso altri tipi di supporti. Sì, sì. Quindi... Senta, per curiosità, ma ci mettiamo 10 secondi, su queste nuove frequenze che verranno messe all'asta fra, speriamo presto, adesso non so fra quanto, i 700 MHz, che tipo di servizi ci andranno? Perché c'è chi mi dice che ci andranno servizi, ad esempio, d'emergenza. No, questa è una cosa che negli Stati Uniti capita, ci sono alcune bande immaginate per questi servizi di emergenza. Noi stiamo pensando allo spostamento in Europa per la banda 700 MHz, perché già prevediamo che ci sarà una saturazione rapidissima, insomma, nel corso di 4-5 anni anche della banda 800 MHz. Sì, comunque quindi, anche quelle per internet in mobilità. Sì, anche quelle per internet in mobilità. Benissimo. È una tendenza enorme, insomma, quindi sì, sì, sì. La necessità di banda, la fame di banda per i servizi di internet in mobilità è enorme, e quindi ovviamente si pensa di spostare altre frequenze nel medio termine su questi servizi. Bene, adesso abbiamo una pausa, ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Stiamo parlando di un problema che vedremo il prossimo anno, e anche qui bisogna capire quando cominceremo a vedere questo problema, ovvero le interferenze della telefonia di quarta generazione sulla ricezione dei canali televisivi del digitale terrestre, almeno alcuni di questi canali. L'ingegnere Mario Frullone è il direttore delle ricerche della Fondazione Ugo Bordoni, e tra poco vorrei risentire Genovese di Fracarro. Ingegner Frullone, quindi mi sembra di capire che lo schema verso il quale si va è che quando un cittadino avrà un problema dovrà chiamare l'operatore di telefonia, ma soprattutto quale operatore? Cioè, chi chiamerò io? Ecco, a dire il vero si chiamerà un call center che dovrebbe essere sarà gestito dalla Fondazione Bordoni per conto del Ministero, poi sarà questo call center, l'operatore di questo call center, che attiverà uno degli operatori che provvederà poi al ripristino della qualità. Quindi ci sarà, come al solito, un accesso via mail, via internet o via numero verde, e si dovrà precisare dove ci si trova, qual è il proprio numero civico. Noi avremo nel frattempo, giorno per giorno, predisposto per i nostri operatori del call center delle mappe di rischio, cioè in funzione delle accensioni che giorno per giorno verranno fatte dagli operatori, noi sapremo dove potremo incontrare qualche problema. Quindi se è vero o non è vero che c'è anche sì, no, perché problema. Il rischio vero, questo è inutile nasconderselo, è che questo fa giustamente paura sia a noi che agli operatori, è che poi ci sia una caccia alle streghe, per cui alla fine anche i problemi che sono già esistenti nel terrestre, in taluni casi, poi dovessero poi essere imputati alla quarta generazione. Ecco, allora questo tipo di, diciamo, il filtraggio, sì, di questi falsi allarmi, chiaro, è un chiaro problema enorme, anche perché mandare a fare interventi anche da dove non è necessario vuol dire Ingegnere, sì, sì, le chiedo di essere breve nella risposta, così diamo parola anche a Genovese. Quantifichiamo quante saranno le famiglie coinvolte in questa cosa? Noi abbiamo fatto una stima che ci porta a circa 700.000 famiglie coinvolte, diciamo antenne coinvolte. Quindi se sono centralizzate sono poi più le famiglie, diciamo di più, così. Sì. Nello Genovese di Fracarro, visto che voi avete un rapporto, perché vendete i vostri prodotti agli antennisti, vi piace, ma soprattutto poi piace agli antennisti questo schema? Perché io cittadino potrei anche non essere d'accordo, cioè potrebbe non piacermi e dire no, io voglio chiamare il mio professionista. Genovese. Sì, io intanto sono contento di sentire l'ingegnere così confidente e così positivo, perché credo che i problemi siano di una grandezza superiore. Primo fra tutti, ho detto, se si poteva pensarci prima, assolutamente sì. Non si è fatto e ci troviamo in una situazione di caos proprio perché i governi, anche quello italiano, non hanno potuto pensarci prima. Perché noi abbiamo già subito negli ultimi anni un passaggio al digitale terrestre che, vi ricordo, ha già fatto sborsare a tutti i cittadini parecchi soldi per rivedere gli impianti. Detto questo, questo schema io non so se funzionerà molto bene, perché proprio per le ultime cose che venivano dette ci sono gli italiani che si comporteranno in maniera corretta e avranno effettivamente un problema per il 4G e chiameranno l'operatore perché mette il filtro piuttosto che un nuovo amplificatore. Ce ne saranno tanti che potranno approfittare di questo per farsi rivedere l'impianto. Non sarà così facile capire se il difetto era dovuto a un cattivo sistema fatto prima o effettivamente all'LTE. Cioè lei dice, per se cui adesso io ho un impianto che va male, magari aspetto qualche mese, accendo un'antenna 4G di fianco a me, poi chiamo e dico non si vede più la TV, invece il problema era precedente. Assolutamente possibile, sicuramente col 4G peggiorerà, ma c'era già qualcosa che non funzionava prima. Poi, come dicevo io, una cosa è su un impianto di un certo tipo a una certa distanza dal punto di trasmissione, per cui basta inserire un filtro. Una cosa è dover rivedere completamente l'impianto perché il cavo è vecchio, per cui il segnale entra addirittura dal cavo. Come si può fare una casistica precisa per dire anche agli operatori telecom quanto e cosa devono pagare? Io la vedo abbastanza complicata. Senta, quali sono i canali televisivi che verranno disturbati maggiormente? Cioè anche Rai, Mediaset, eccetera, eccetera, quelli più visti? Adesso mi cogli in fallo, dipende comunque dalle Gianfranco zone. Dipende più che altro dal tipo di disturbo. Il canale 60 sarà sicuramente disturbato perché è adiacente alla banda 4G e quindi potrebbe subire proprio dei disturbi per un magari taglio non troppo ripido del filtro. Se però il segnale entra nell'amplificatore e quindi manda in blocco la totale centralina, semplicemente non si vede più nessun canale. E quindi non è una questione, proprio manda in saturazione, come dicevamo prima, l'amplificatore, quindi non si vede nessun canale. Avrei una cosa da aggiungere a quello che è stato detto, che sicuramente abbiamo chiesto, è stato chiesto agli italiani un grande sacrificio per il passaggio al digitale terrestre, ma è stato una spesa, un esborso funzionale alla visione dei canali TV. Cioè, chi voleva vedere i canali TV, conosco persone che hanno deciso di non passare al digitale terrestre, di tenersi la loro parabola satellitare e divertirsi soltanto col satellite, quindi non aderire a questa cosa. E chi non vuol vedere la TV la spegne e del digitale terrestre se ne può anche fregare. Qui il problema è che questo sacrificio, ammesso che sia un sacrificio o comunque disguido, disturbo che ci sarà, lo diamo agli italiani in ragione di qualcos'altro, cioè non per vedere TV nuova in tecnologia digitale per migliorare il servizio, ma per via di un altro servizio che è dati in mobilità. E quindi sicuramente al pensionato, alla vecchietta, parliamoci chiaro, di questo problema dell'internet in mobilità, anche se a livello di sistema è ovvio, è chiaro, siamo tutti d'accordo che è un avanzamento importante, è chiaro che non potrà essere valutato come una giustificazione. Io volevo chiedere una cosa, se posso, a Genovese di Fracarro, che è questo: visto che hanno contatto con tutti gli antennisti, e quindi siccome qualunque sia il sistema di coordinamento degli interventi che arrivi attraverso Fondazione Ugo Bordoni, che poi si mette in contatto con le telecom, che poi mandano qualcuno, quel qualcuno che va a casa necessariamente dovrà essere un antennista. Ecco, io se possibile, come dicevamo prima, vorrei che fosse anche il mio antennista di fiducia e non un antennista qualsiasi che viene a mettere le mani in un impianto che magari non conosce o non conosce bene. Ma tutti gli antennisti con i quali voi avete contatto, Genovese, sono già mobilitati, sono già informati, sono seduti a un tavolo e sono pronti a ricevere le chiamate di qualcuno dal 1 gennaio? Gli antennisti sono mobilitati perché è un problema che tocca anche loro. Noi come Fracarro, ma anche le nostre aziende concorrenti, ma anche l'Anitec e anche la Rai Media, si stanno facendo dei roadshow in giro per l'Italia proprio per informare e formare gli antennisti su quello che vuol dire l'ex LTE, ora 4G, per essere pronti a questo evento. C'è da dire una cosa però, che come tutti i cambiamenti repentini, l'industria ha delle difficoltà a seguire, perché è un passaggio digitale on off. Se domani parte un segnale LTE o 4G che si voglia in una zona e tutti vedono male, è chiaro che c'è un'impennata di richieste che non è possibile, che è difficile da gestire, dare una, certo, risposta da gestire in poco tempo, per cui ci sarà una coda molto molto molto lunga. Chiaro, chiarissimo. Ingegner Frullone, quando cominceremo a vedere i problemi? Non dal 2 gennaio, ipoteticamente? No, io volevo appunto dire, rispondere subito a questa domanda. Noi prevediamo che i problemi si presenteranno in maniera graduale per due ordini di motivi. Il primo è che il piano di rollout delle stazioni dell'800 MHz è un piano di rollout che, per quanto aggressivo per qualche operatore, è un piano che comunque possiamo sì, abbastanza lento, diciamo così, abbastanza lento. Sì, sì, abbastanza lento. Sì, sì. Poi questo è un problema che diventa sempre più importante quando il traffico sulla cella diventa importante, quindi non è che sì, ci possiamo però, aspettare. Diciamo, i primi problemi ci saranno già a gennaio, febbraio, marzo, dobbiamo aspettare giugno? Secondo me cresceranno in maniera graduale, insomma, perché cresceranno col traffico di quarta generazione, insomma, ecco, perché se montiamo un'antenna di quarta generazione ma non sviluppa traffico, ovviamente non ci sono problemi di saturazione degli amplificatori, problemi ce li aspettiamo mano a mano che incomincia a crescere il traffico. Questa è la prima, sì, è la prima osservazione. Quindi questo combinato del rollout e della crescita del traffico ci porta a immaginare una crescita graduale dei problemi. Su una cosa però mi lasci solo dire, io non ho capito come si poteva intervenire prima, ecco, perché oggi noi abbiamo molte regioni italiane in cui i canali a 61-69 adesso mentre parliamo vanno in onda. Non capisco come si poteva intervenire prima mettendo filtri da tagliare. Quindi questo lo lasciamo ai tavoli tecnici che sono attivi. Tra poco sentiamo Luciano da Udine. Devo dire che molti degli ascoltatori che ci hanno chiamato oggi sono evidentemente dei tecnici o dei super appassionati, quindi ci hanno fatto delle domande poco popolari, che anche queste andrebbero fatte ai tavoli tecnici. Ci risentiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Domanda lecita di Tina, che ci dice via SMS: non ho capito se i problemi li avrà anche chi segue la TV via satellite. No, nessun tipo di problema, perché quelle sono altre frequenze, altre cose, quindi continui a guardare tranquillamente la TV via satellite e anche ascoltare la radio via satellite, perché vi ricordo che Radio 24 trasmette anche attraverso il canale 700 di Sky. Dunque, sentiamo Luciano da Udine. Buongiorno, benvenuto Luciano. L'ascoltiamo. Buongiorno a voi. Prego. Guardi, ho alcune informazioni che forse ai vostri interlocutori non risultano chiare. Il 3G o 4G, anzi il 4G o XLTE, come dir si voglia, attualmente in Italia non è una banda ancora occupata in nessuna parte, perché anche in quelle zone dove il 4G è già funzionante, e mi riferisco a poche zone italiane, viene utilizzata la banda 3G in maniera sperimentale. Vabbè, l'abbiamo detto, faccia la domanda. Benissimo, allora, per i problemi delle zone di confine, visto che io abito presso il confine, da dove le TV straniere, mi riferisco alle slovene e alle austriache, entrano dentro a bomba sui nostri canali, oscurando i canali dei mood a disposizione dei vari, delle varie TV, come faremo per evitare l'interferenza? E le antenne militari, quelle che ci sono per i radar, che occupano la banda del XY-MAX, che devono essere utilizzate dalla telefonia mobile, che ancora esistono, non vengono sostituite, quindi la banda, pur essendo stata venduta dallo Stato italiano, non è utilizzabile dagli operatori di telefonia mobile. Perché non si parla anche di questo? E perché si parla solamente dell'attività dei canali TV? Aspetti Luciano, si fermi. Allora, perché allora, la trasmissione la curo io, decido qual è l'argomento, perché se parliamo di frequenze potremmo metterci a parlare anche di frequenze satellitari, di frequenze della radio DAB, eccetera eccetera. Oggi quello è l'argomento, ecco, abbiamo una puntata alla settimana, quindi questo il motivo è presto detto. Grazie di aver chiamato, ingegner Frullone. Le risulta che ci siano delle frequenze assegnate al WiMAX che sono ancora in mano ai militari? No. Anche a me non mi risulta. Delle zone che avevano un calendario di liberazione concordato, ma già ai tempi dell'ASA, ma parliamo di piccolissime porzioni di territorio, quindi c'è Gianfranco, che si siano già tutte quante liberate, parliamo di un'asta che è partita 3 anni fa. Insomma. C'è Gianfranco Giardina che ha una domanda per lei. Sì, allora, dato che evidentemente il disturbo del 4G sugli impianti TV sarà ovviamente più forte nelle zone limitrofe all'antenna, anzi molto, molto vicine, volevo sapere se già si sa quanto sarà l'ampiezza della cella, cioè quanto sarà frequente la distribuzione delle antenne per la rete 800 in 4G e se queste verranno utilizzate prevalentemente in zone poco urbane o molto urbanizzate. Ecco, noi ci aspettiamo che l'utilizzo prevalente sia nelle zone urbanizzate e quindi ci aspettiamo che questo problema incominci appunto da gennaio nelle zone urbane, perché ovviamente questa è poi una tradizione nelle modalità di deployment della rete degli operatori mobili, quella di aggredire prima le zone ad alto traffico e poi le altre, quindi il deployment riguarderà prima le zone quelle urbanizzate e poi gli obblighi di copertura verranno poi nel corso degli anni. Certo, prego. La dimensione della cella? Cioè, più o meno? Su questo, diciamo che non è che si possa dare facilmente una dimensione, nel senso che molto dipende anche dall'orientamento relativo delle antenne, perché come tutti noi sappiamo le antenne delle televisioni sono tutte quante puntate tipicamente in una o due direzioni, e questo è molto importante nella definizione della presenza o meno del disturbo, perché se l'antenna televisiva è puntata proprio verso il lobo principale, sono detto i lobi delle antenne mobili, ovviamente il fastidio può essere più significativo anche a distanze più elevate. Ma questo vuol dire che nelle zone urbane noi avremmo antenne sugli 800 4G, una per chilometro più o meno, cioè con questa frequenza? Io penso che all'inizio si partirà con questo tipo di densità, poi ovviamente poi verrà intensificata col tempo, insomma. Ecco. Certo, quindi diciamo che l'area di disturbo sarà un'area che sarà dell'ordine di alcune decine di metri, alcune al massimo alcune centinaia di metri. Ultimo minuto per Nello Genovese. Detto che I problemi ci sono, ci saranno, insomma, i tavoli non hanno concluso ancora il loro lavoro, però per tutto il mondo dei tecnici televisivi, insomma tutto il mondo che gira attorno a queste tecnologie, il passaggio al digitale e anche questi problemi saranno anche un business, quindi in momenti di crisi non va tutto male, Genovese. No, assolutamente no, sicuramente questo aiuta un mercato che è in sofferenza perché l'economia non gira, la finanza non gira. C'è da dire che però a nessuno piacciono mercati di picco e drogati perché creano degli scompensi industriali non indifferenti. Comunque sì, ci sarà un mercato interessante. Sì. Frullone, comunque possiamo concludere dicendo che in teoria, poi speriamo che la teoria a gennaio diventi pratica, i cittadini non dovrebbero pagare. Io sono veramente confidente che sia teoria ma che sia anche pratica e che quindi non ci siano problemi a carico dei cittadini, assolutamente. Bene, io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie a lei e a tutti i suoi ospiti per il servizio che rende, che è molto interessante. Grazie molte. Mario Frullone è direttore delle ricerche alla Fondazione Ugo Bordoni, che come dicevo all'inizio è il braccio operativo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, per, in questo caso per la parte che riguarda le comunicazioni. Nello Genovese, vicepresidente di Fracarro Radio Industria, presto e buon lavoro anche a lei. Grazie mille e buona serata a tutti. E grazie del tempo che ci ha dedicato e naturalmente grazie anche a Gianfranco Giardina per il lavoro, visto che questa settimana ci siamo sentiti più volte per chiarirci a vicenda, soprattutto io perché Gianfranco è molto preparato su questo tema, avremmo potuto dedicare una trasmissione di, non so, 10 o 15 ore sì, su questo argomento. Questo sì, però possiamo incominciare a fare un piccolo appello, visto che questi disturbi ci saranno sul territorio e noi non siamo su tutto il territorio, in questo momento siamo a Milano, poi giriamo molto ma siamo prevalentemente qui. Magari gli ascoltatori di 2024 e anche i lettori di D-Day possono, man mano che eventuali disturbi si dovessero palesare, segnalarcelo e così noi potremo fare anche tutte le verifiche di cosa sta succedendo. Esatto. Anche con l'aiuto di Fondazione Ugo Bordoni. Esattamente. Grazie, è tutto per questa puntata, ci trovate anche in podcast, io sono Enrico Pagliarini, grazie a Gianfranco Giardina, mi trovate anche su Twitter @ e _ Pagliarini. Alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds and we're